Passeggiando tra le stelle ti ho trovato, tra le perle, il tuo sguardo, il tuo mondo, una fuga che profuma vento. Dei miei sogni, passeggiando tra le rive del tuo corpo, sfioro vene, navigabili fiumi alla mano, tu non sai quanto ti amo. Voli nei cieli alle mani, nei laghi ti tuffi e ti bagni, di Mozart, Schumann, Schubert, sinfonie di Bach tra i sogni. Ti tuffi e ti bagni di ciglie, parole, anagrammi, tu pergamena dei miei sogni. Voli nei cieli alle mani, nei laghi ti tuffi e ti bagni di Mozart, Schumann, Schubert, sinfonia di Bach tra i sogni. Passeggiando tra le rive del tuo corpo, sfioro vene, navigabili fiumi alla mano,